governo pone la fiducia alla Camera, nuova bagarre dei leghisti, seduta sospesa e due espulsi. Confindustria lancia l'allarme, Italia in recessione, pressione fiscale record nel 2013. 2 anni di carcere con la condizionale per l'ex presidente francese Jacques Chirac per il caso dei falsi impieghi al Comune di Parigi quando era sindaco. Un po' bollicine, un po' vodka, il 70% della nostra gancia va ad una società russa leader nella produzione del liquore che piace a Mosca e non solo. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. È di nuovo rissa questa mattina alla Camera, i fischi dei leghisti contro la manovra, seduta sospesa, due espulsioni proprio fra i leghisti. Ma ripercorriamo la mattinata con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, la Lega sempre più di lotta nell'aula di Montecitorio, prima con cori di vergogna, vergogna, poi esponendo i cartelli con su scritto Noici, ma a quel punto scoppia la bagarre, il presidente della Camera Gianfranco Fini espelle i due deputati leghisti, Buonanno e Rainieri, dall'emiciclo e li deferisce al collegio dei questori. Sentiamo proprio il momento dell'espulsione. Onorevole Buonanno, la prego di togliere immediatamente quel cartello, lei è espulso dall'aula. Come si chiama questo? Onorevole Rainieri, lei è espulso dall'aula. Onorevole Buonanno e Rainieri, uscite immediatamente dall'aula. Prego i questori di fare eseguire immediatamente la disposizione della Presidenza, allontanando immediatamente i colleghi Buonanno e Rainieri. Ci hanno impedito di parlare, tuona il capogruppo leghista Marco Reguzzoni, non siamo riusciti a discutere delle nostre proposte né a votare gli emendamenti, a Silvio Berlusconi e al PDL chiederemo di votare no. E ieri il Cavaliere si è detto perplesso da alcune delle misure all'interno della manovra, conferma il no anche l'Italia dei Valori, Massimo Donati spiega che diranno no alla fiducia perché manca la lotta all'evasione, l'equità e l'asta sulle frequenze TV. Protesta in aula anche Domenico Scilipotti, passato all'opposizione contro quello che definisce il governo dei banchieri, e Fini lo invita alla calma. Dall'UDC Savino Pezzotto critica la Lega che ha contribuito a farci arrivare sull'orlo del precipizio e adesso grida e urla. Per il momento qui dalla Camera è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Intanto il governo pone la fiducia alla Camera sulla manovra e si chiariscono i dettagli sui contenuti. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Buongiorno, autorizzata già dal Consiglio dei Ministri, la fiducia è stata posta questa mattina dal Governo sul testo uscito dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera. Domani alle 10 inizieranno le dichiarazioni di voto, quindi a seguire la fiducia, in serata arriverà il via libera all'intero provvedimento che passerà poi al Senato. Ma tornando ai contenuti, è arrivata una precisazione da parte del Ministero dell'Economia in merito all'aumento dell'accisa sul tabacco. Questa riguarda solo il cosiddetto tabacco trinciato, ossia quello venduto nelle buste per confezionare manualmente le sigarette. Il maggior gettito derivante da questa misura dovrebbe contribuire a compensare in parte l'alleggerimento che c'è stato rispetto alla prima versione della manovra all'aumento della tassazione per auto di lusso ed imbarcazioni. Tra gli altri elementi di maggiore interesse del decreto Salva Italia ricordiamo che l'adeguamento al costo della vita delle pensioni fino a 1.400 euro ci sarà anche nel 2013 e non solo il prossimo anno, ed ancora arriva un ritocco all'imposta di bollo sui capitali scudati, fissata al 4 per 1.000, salirà solo per il 2012 al 10 per 1.000 e per il 2013 al 13,5. Il capitolo ICI IMU, infine, la detrazione sulla prima casa resta a 200 euro, si aggiungono poi ulteriori 50 euro per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 400. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Questa mattina i dati economici del Centro Studi Confindustria in diretta, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, tinte davvero fosche per la nostra economia, stime di crescita tagliate al meno 1,6 per il 2012 e al più 0,5 nel 2011, mentre il biennio 2012-2013 si chiuderà con 800.000 posti di lavoro in meno e ancora pressione fiscale alle stelle, quella reale nel 2013 arriverà al 54%. L'Italia è dunque in recessione con una possibilità di ripresa dalla tarda primavera del 2012, ma che per Confindustria è considerata l'ultima chance. Sentiamo allora la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Siamo in recessione, questo avrà ovviamente un impatto anche sull'occupazione che peggiorerà, le preoccupazioni sono molte, ci sarà un blocco, investimenti caleranno i consumi, però quello che noi oggi vogliamo dire è che il Paese ce la può fare, però non siamo condannati a stare in recessione per i prossimi anni. Certo, il 2012 ormai è un po' compromesso da quello che è successo negli ultimi mesi del 2011, però ce la possiamo fare. Nella manovra c'è un inizio che riguarda la crescita, riguarda ovviamente una parte sul fisco, c'è una parte che sblocca le infrastrutture, però bisogna fare di più. La situazione è peggio del previsto, ha commentato il ministro dello sviluppo Passer. Siamo in recessione, ma dobbiamo e possiamo uscirne, per questo bisogna promuovere crescita e produttività. Ma sentiamo le sue parole. Il piano per affrontare l'attuale situazione, per rilanciare la crescita, è quella che abbiamo presentato, e poi dovremo, insieme anche alle parti sociali, al mondo delle imprese, trovare tante altre iniziative per rimettere in moto in tutti i settori il più possibile crescita sostenuta e sostenibile, quella che crea cioè posti di lavoro. Quanto alle liberalizzazioni, sulle quali la stessa Marcegaglia ha chiesto passi ulteriori, Passer assicura ci sono tante resistenze, ma andremo fino in fondo. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schefisi. Cala l'inflazione a novembre, ma il carrello della spesa è sempre più caro. Se andate spesso al ristorante e non usate la macchina, è una buona notizia. Se mangiate a casa vostra e siete pendolari, è pessima. A novembre, infatti, l'Istat ha registrato prezzi generalmente in lieve calo, ma non per i prodotti più acquistati, alimentari e carburanti in testa. L'inflazione, infatti, è passata al 3,3% dal 3,2% di ottobre. Su base mensile, quindi, i prezzi sono calati dello 0,1%. In generale, sono scesi i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in particolare di bar e ristoranti, ma anche dei trasporti. A novembre però il carrello della spesa, ovvero i prodotti acquistati con più frequenza dal cibo e carburanti, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 4,2% su base annua. È il rialzo maggiore dall'ottobre del 2008. Aumenti che, spiega l'Istituto di Statistica, dipendono in larga parte dall'aumento IVA deciso dal precedente governo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo questa lunga pagina economica facendo il punto sulle borse. In diretta con noi Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Borse che reagiscono naturalmente a tutta la fitta lista di dati macroeconomici che avete appena indicato, ma ce ne sono anche altri. Per esempio la Banca Centrale Europea ha pubblicato il suo bollettino di dicembre, dove parla di una graduale ripresa nell'Eurozona per il 2012, ma naturalmente con molti rischi in agguato. L'inflazione tenderà a scendere per la debole crescita. La BCE chiede a tutti i governi un impegno urgente per la sostenibilità dei conti. Oggi ne arrivano peraltro anche moltissimi dagli Stati Uniti. In tutto questo la borsa che cosa fa? Le borse stamattina tentavano di rimbalzare dopo i cali forti di ieri, circa un punto di rialzo in avvio, poi forte rallentamento e poi recupero. Adesso così siamo un po' in un mix di situazioni. Londra cresce dello 0,4%, Parigi più 0,5%, abbiamo Francoforte che è in rialzo dello 0,8%, Milano più 0,60%. Segnalo su Milano solo da tenere sotto osservazione la giornata di Unicredit, perché oggi il gruppo vara il maxi aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo, il titolo cresce dello 0,7%, vanno però bene tutti gli altri titoli bancari. Cosa fa lo spread? Era partito molto male stamattina. Il differenziale di rendimento fra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi era volato a 490 punti base in avvio, è arrivato a 496, poi c'è stata un'asta spagnola di bonus, di titoli di Stato appunto spagnoli, che è andata molto bene e lo spread si è ristretto intorno ai 485 punti. E direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. In Russia le parole in TV del premier Vladimir Putin, reduce dalle contestazioni. Dietro alla morte del colonnello Gheddafi ci sono gli Stati Uniti, dice, rispondendo agli attacchi del senatore americano John McCain, secondo il quale Putin potrebbe fare la stessa fine dell'ex leader libico. Se ci sarà cambiamento in Russia, sarà molto graduale. La risposta di Vladimir Putin alle proteste nate dalle elezioni del 4 dicembre è una lunghissima maratona televisiva in cui per tradizione il premier risponde a decine di domande da ogni parte del paese. Una spolverata di concessioni e la richiesta di cambiamenti ha caratterizzato l'edizione di quest'anno, ma nella sostanza Putin non sembra aver assorbito molto di più da quello che sta avvenendo nel paese. Ha sorriso ai dimostranti dicendo che se il frutto del regime putiniano è stato far crescere giovani così intelligenti e attivi, questo non può che fargli piacere. Ha parlato di impegno per il rafforzamento di istituzioni democratiche, però ha avvertito l'opposizione che una destabilizzazione simile alla rivoluzione arancione in Ucraina non sarà tollerata, e nel suo consueto stile cameratesco ha paragonato i fiocchi bianchi, simbolo della protesta, a dei preservativi. Nessun riconteggio del voto, ha fatto capire Putin, proponendo però per le presidenziali di installare nei seggi telecamere a ciclo continuo, in modo che ognuno possa monitorare su internet la correttezza del voto di marzo. Che Putin, proteste o no, rimane certo di vincere. Antonella Scotto, Radio 24, Sulle 24 Ore. 118 morti. Questo è il bilancio di un avvelenamento di massa avvenuto in India, nella regione del Bengala occidentale. Tutte le vittime avrebbero bevuto alcol, probabilmente contenente un solvente altamente tossico. Secondo quanto si è appreso, tutti avevano comprato in rivendite pubbliche della zona il liquore prodotto da una fabbrica di Mograhat, che è stata poi attaccata ieri durante una manifestazione di protesta. Il governo ha invitato la popolazione alla calma e promesso un indennizzo di 200.000 rupie, 2.800 euro circa, ai familiari di ogni vittima. La polizia ha annunciato finora l'arresto di 7 persone. Torniamo in Italia con i disagi oggi e domani per chi deve spostarsi. Sentiamo. Disagi oggi e domani per chi si sposta con i mezzi pubblici. Partiamo dai motivi. FILCGL, FICCISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti e altre sigle chiedono il ripristino dei finanziamenti al servizio pubblico locale ferroviario. Secondo le organizzazioni sindacali, in assenza di un reintegro delle risorse tagliate al settore, è fondato il rischio di una drastica riduzione del servizio pubblico, con conseguenze drammatiche per la mobilità dell'intero paese e per l'occupazione dei dipendenti del settore e dei lavoratori dell'indotto, che già in questi giorni scontano pesantemente gli effetti dei tagli ai treni notturni. Questo è quanto si legge nella nota sindacale. Tant'è, ma perché ogni giorno si sposta per andare al lavoro o altro, sarà una o due giorni di passione. Entriamo nel dettaglio. Oggi lo sciopero interesserà gli autobus e il trasporto extraurbano e dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani le ferrovie, anche se per quanto riguarda i treni saranno garantiti servizi minimi nelle fasce 6, 9, 18, 21, oltre i treni a lunga percorrenza. Domani invece scatterà lo sciopero dei mezzi pubblici, come sempre con modalità diverse da città a città. A Roma, per esempio, si fermeranno dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 fine servizio, a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Unica eccezione Bologna, dove i mezzi pubblici sono fermi oggi fino alle 16.30 e poi dalle 19.30 fine servizio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera, nuova bagarre dei leghisti, seduta sospesa e due espulsi. Confindustria lancia l'allarme, Italia in recessione, pressione fiscale record nel 2013. Disagi per lo sciopero dei trasporti extraurbani, dalle 21 treni a rischio, stop per 24 ore, domani fermi i mezzi pubblici. E ripartiamo dalla Francia per una condanna senza precedenti. Un ex presidente della Repubblica è stato giudicato e condannato come un comune cittadino per un caso di oltre 20 anni fa, riaperto dalla giustizia dopo che Chirac ha perso l'immunità presidenziale al termine dei suoi 12 anni all'Eliseo. 2 anni di carcere con la condizionale e una macchia sugli anni dell'ascesa alla presidenza, colpevole di storno di fondi pubblici, abuso di potere per la creazione di 21 posti di lavoro fittizi all'interno dell'enorme amministrazione della capitale, quando naturalmente ricopriva la carica di sindaco di Parigi. Per l'ex presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac, che il prossimo anno compirà 80 anni, le lancette della politica tornano a oltre 30 anni fa, quando dopo aver già ricoperto il ruolo di primo ministro di Giscard d'Estaing rompe con il presidente gollista, rifonda il partito e lo sfida proprio sul terreno della capitale, contribuendo non poco alla sconfitta di Giscard alle presidenziali dell'81. Tra l'83 e il 95, mentre Mitterrand è presidente all'Eliseo, Chirac è il signore dell'Hôtel de Ville, la prestigiosa sede del comune di Parigi, poco distante da quel grande Centre Pompidou che resta la sua più importante e discussa trasformazione urbanistica. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Il presidente del Consiglio Monti ha incontrato i presidenti delle regioni del sud poco fa. Sentiamo dalla Sky che cosa sta dicendo in conferenza stampa. Ad applicare concretamente un'altra fondamentale scelta che il governo ha operato nel decreto legge. La promozione della concorrenza. Presentando il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Ecco, quindi Mario Monti ha incontrato i presidenti delle regioni del sud. Sentiremo poi nei prossimi GR24 i contenuti di questo incontro, che cose si sono dette, quali accordi sono stati raggiunti. Noi invece torniamo a parlare di un accordo fra l'Italia e la Russia. Infatti la Russian Standard Corporation, società russa leader nella produzione di vodka di alta gamma, ha acquisito il 70% di Gancia SPA, la storica casa piemontese produttrice di spumanti che tutti noi conosciamo. L'accordo è stato annunciato ufficialmente questa mattina a Canelli, in provincia di Asti. Sentiamo dall'inviato del Sole 24 Ore Emanuele Scarci cosa comporta questo accordo. Questo comporta che il 70% della società che prima apparteneva interamente alla famiglia Gancia, ora il 70% passa agli investitori russi, però la famiglia rimane ancora con il 30%. La motivazione qual è? Che in un mondo di giganti, si pensi un po' a Cinzano, a Martini, agli altri, era impossibile continuare con le risorse limitate di una famiglia e affrontare i mercati internazionali. Quindi è una scelta obbligata. Se si vuole crescere, se si vuole svilupparsi, è necessario accedere ai grandi capitali. Se poi c'è una grande distribuzione, tanto meglio, e questo è il caso del caso Gancia, insomma, della vicenda Gancia, che permette di accedere a una distribuzione capillare e molto importante. Il gruppo De Agostini va al raddoppio in Spagna. La controllata Antena 3 compra la Sexta, pronti a fare concorrenza a Mediaset e Spagna. Duello italiano in campo straniero. Si gioca in Spagna in ambito televisivo la partita tra De Agostini e Mediaset Spagna. L'emittente Antena 3, controllata dal gruppo Planeta, di cui la De Agostini è azionista, acquista la Sexta e crea un polo televisivo da quasi 1 miliardo. Nessun esborso di denaro, però l'operazione sarà carta contro carta. Antena 3 si farà carico delle passività cospicue di la Sexta e darà agli attuali soci dell'emittente titoli del nuovo gruppo pari a circa il 7% del capitale, con la possibilità di salire fino al 14%. Il gruppo De Agostini resterà al comando, diluendo di poco la propria partecipazione. Gli osservatori potranno sospirare che alla fine l'accordo arrivò. Da mesi si vociferava di questo matrimonio, che però mai era arrivato all'altare. Il polo televisivo nascente starà con il fiato sul collo di Mediaset Spagna, che è il leader nel paese con Telecinco, rafforzatasi l'anno passato con l'acquisto del canale in chiaro 4. La Sexta, che si trovava in forte difficoltà, può portare in dote la sua forza nelle trasmissioni in campo sportivo, permettendo ad Antena 3 di ampliare la propria offerta. Conti alla mano, le due si troveranno a distanza di un punto di share. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di TV, ricucito definitivamente lo strappo fra il direttore del TG della 7, Enrico Mentana, e la redazione. Enrico Mentana ci ripensa. Sulla sua pagina di Facebook oggi annuncia che resterà alla guida del telegiornale della 7. Ieri pomeriggio, a sorpresa, il giornalista aveva minacciato di dimettersi. Motivo: una denuncia per comportamento antisindacale da parte dell'Associazione Stampa Romana, un'iniziativa arrivata dopo mesi di rapporti difficili fra il direttore e la rappresentanza sindacale della sua redazione. Ma a fargli cambiare idea sono stati proprio i giornalisti della 7, ha spiegato lo stesso Mentana, ospite a Mattino 5. Ieri sera, dopo un lungo e faticoso parto, è uscito un documento in cui i miei giornalisti riuniti in assemblea hanno completamente sconfessato l'operato del sindacato territoriale, cioè l'associazione della stampa romana, dicendo che era un'iniziativa sbagliata e chiedendo di ritirarla. Seguirò il consiglio di non lasciare incompiuto il lavoro al telegiornale, ora fioccheranno le dietrologie, ma chi se ne frega, ha aggiunto Mentana, smentendo le voci di una sua possibile candidatura alla direzione del TG1 dopo l'uscita di scena di Minzolini. Il comitato di redazione della 7 ha accolto con soddisfazione la sua decisione di non dimettersi dalla direzione del telegiornale ed ha anche auspicato il ripristino di serene relazioni sindacali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo alla conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio Mario Monti, che ha incontrato i presidenti delle regioni del Sud. Oggi credo che facciamo un grosso passo avanti. L'orientamento europeo del nostro governo l'abbiamo ben tenuto presente prima che il governo nascesse, e cioè al momento di individuare i ministri perché dessero vita a questo governo, e il ministro Fabrizio Barca non è stato individuato a caso da me, che l'ho sottoposto al capo dello Stato come ho fatto per gli altri ministri, ma si tratta dell'italiano più autorevole, ma direi che non c'è un altro europeo altrettanto. Questa autorevole. Dunque la conferenza stampa del Premier Monti che ha incontrato i presidenti delle regioni del sud. Torniamo invece ad un episodio di cronaca. Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, è stato assolto nell'ambito del processo sul crack di HDC, la società di Luigi Crespi, ex sondaggista di Silvio Berlusconi. Assolto anche il parlamentare PDL ed ex manager di Fininvest Alfredo Messina. Entrambi erano accusati di favoreggiamento. È stato invece condannato a 7 anni Luigi Crespi, imputato di bancarotta, per il quale i PM avevano chiesto 8 anni di reclusione. Inchiesta su Ciancimino Junior, perquisizione a casa dell'ex parlamentare Lino Iannuzzi. Perquisita stamattina la casa romana di Lino Iannuzzi, uomini della DIA di Caltanissetta hanno bussato alla porta del giornalista ed ex parlamentare di Forza Italia alle 7 del mattino, alla ricerca di materiale sui rapporti tra Iannuzzi e Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo condannato per mafia Vito Ciancimino. Il provvedimento disposto dalla procura di Caltanissetta si inserisce nell'ambito dell'inchiesta che mira a individuare possibili suggeritori dietro le dichiarazioni di Ciancimino Junior, arrestato a Palermo per calunnia. Da indagini sui contatti del figlio di Don Vito emergerebbero infatti diversi incontri con il giornalista, incontri che si sarebbero ripetuti non solo in Italia ma anche a Parigi. I contatti tra Iannuzzi, amico di Vito, Ciancimino e anche del senatore PDL Marcello Dell'Utri, sono avvenuti proprio nei mesi in cui Massimo rilasciava dichiarazioni ai magistrati di Caltanissetta. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'obiettivo è sfruttare sovvenzioni pubbliche fingendo di eseguire lavori sulle dimore storiche. Benefici concessi per la conservazione e l'interesse architettonico degli edifici di pregio, che per questo godono anche di riduzioni IRPEF e ICI fino al 75%. La tecnica è semplice. Viene costruito un gruppo societario, composto da associazioni culturali, fondazioni onlus, che risulta, almeno sulla carta, fortemente impegnato nell'attività di diffusione culturale del marketing. In realtà utilizza a proprio vantaggio i benefici fiscali, facendo fatture false per lavori edili. Non solo, il giro di transazioni finanziarie con operazioni economiche fittizie è spesso vorticoso, consulenze aziendali, commerciali e di marketing, corsi di formazione, vendita o acquisto di opere d'arte, tutto o quasi finto, finalizzato all'evasione fiscale e all'ottenimento di linee di credito indebite da parte delle banche. Risultato, in un recente caso di cronaca, 3 miliardi di euro di fatture false e 26 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata alle missione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché truffa aggravata ai danni degli istituti di credito. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono posti dove sono stato, posti. Quella che state ascoltando è la voce di Francesco De Gregori, sicuramente l'avrete riconosciuta. Questa sera il cantautore si esibirà a Roma in un piccolo spazio, il Club The Place. Un appuntamento speciale perché sarà possibile seguirlo anche su YouTube. È la prima volta che un grande artista italiano decide di esibirsi in diretta anche in rete. E siamo al calcio. Questa sera l'Udinese potrebbe costruire l'amplen delle squadre italiane in Europa. Ci racconta tutto qui accanto a me Carlo Genta. Ciao Piera, buongiorno a tutti. Prima di parlare delle italiane però posso dare una notizia di cronaca che riguarda sempre il calcio internazionale, ma il Barcellona in questo caso, perché si è appena conclusa questa semifinale del Mondiale per club contro l'Al Sadd. Beh, l'esito era scritto, che il Barcellona avrebbe vinto, lo sapevamo. Il risultato finale è 4-0. Adriano, doppietta per lui, Keita e Maxwell. Dunque il Barcellona giocherà la finale del Mondiale per club contro il Santos, come da pronostico. La notizia vera è che avrà un riflesso anche sulla stagione del calcio internazionale del Barça e della Spagna, riguarda la frattura alla tibia per David Villa, quindi una star del Barcellona, della nazionale spagnola, che si è fatto male in maniera seria. Quanto al calcio italiano, invece, questa sera l'Udinese deve cercare di passare il turno di Europa League. Gioca in casa contro gli scozzesi del Celtic. All'Udinese basta un punto e a quel punto sarebbe emplende le squadre italiane, le tre di Champions League che sono passate, ieri sera la Lazio, e oggi sarebbe la volta dell'Udinese, quindi andremo a far festa domani al sorteggio di Nyon, aspettando i prossimi avversari, ma insomma in maniera piuttosto serena e felice. Piero. Grazie a Carlo Genta. Prima di chiudere, una notizia di agenzia: una busta contenente un dispositivo esplosivo è stata intercettata negli uffici di Equitalia a Roma sul lungo Tevere Flaminio ed è stata consegnata agli artificieri. Gli agenti hanno preso in consegna la busta accertando la presenza del dispositivo esplosivo, dunque ancora tensione a Roma da questo punto di vista. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.